English 24. E anche per questo sabato sera benvenuti a English 24. Ve l'avevamo promesso, questa settimana torniamo a parlare di Oscar. Settimana scorsa abbiamo ricordato i grandi momenti delle cerimonie del passato. Questa settimana possiamo sentire alcuni grandi momenti della cerimonia degli Oscar di quest'anno, cioè di qualche giorno fa, della notte tra domenica e lunedì. Anche questa sera in collegamento da un luogo misterioso, non lo sappiamo dove si trova. Buonasera Giulia. Buonasera a tutti. Abbiamo seguito quindi la cerimonia degli Oscar, abbiamo scelto in particolare il discorso iniziale di Steve Martin e Alec Baldwin. Cosa hanno detto prima che le statuette venissero consegnate? Eccoli qua. But welcome to the 82nd annual Academy Awards. Everyone wants an Oscar, but they're very hard to get. That's right, Steve. Ballots are sent out to 6,000 members of the Academy. Yes, and then they mark their ballots and then they are tabulated by Price Waterhouse. And then no matter what, they nominate Meryl Streep. Meryl Streep holds the record for most nominations as an actress, or as I like to think of it, most losses. But the biggest change this year, the Best Picture category has doubled. And when that was announced, all of us in Hollywood thought the same thing. What's 5 times 2? Christopher Plummer, nominated for Best Supporting Actor. Wow. Alec, what's that movie about? It's about Leo Tolstoy and his wife, Sophia. Oh, Alec, you should have said spoiler alert. Allora, Giulia, la verità è che tutti vogliono un Oscar. Everyone wants an Oscar, but they're very hard to get. Perché noi appunto diciamo gli Oscar, però in realtà sono questi premi dati dall'Academy e i membri di questa Accademia del Cinema, potremmo dire, sono 6.000. Quindi ballots, cioè le schede come fossero delle schede elettorali per votare, are sent out to 6,000 members. Questi mark their ballots, cioè scrivono, fanno il segno sui, naturalmente sono schede anonime, fanno il segno su queste schede. E poi, sempre scherzando, c'è un processo molto complicato, they are tabulated by Price Waterhouse, cioè una famosa società di consulenza, come dire che appunto è un processo dove l'ufficialità del voto, eccetera. Poi però succede una cosa. Cosa succede? Che dopo tutte queste cose complicate, qual è il risultato? No matter what, quindi non importa quel che poi è stato prima, they nominate Meryl Streep. E questo naturalmente è un po' una presa in giro, la povera Meryl, che ripeto, in realtà è co-star con loro di un film, quindi è una cosa molto bonaria, perché sappiamo che Meryl Streep holds the record for most nomination as an actress. To hold a record vuol dire essere la detentrice di un record, e lei detiene appunto questo record del massimo di nomination come miglior attrice protagonista e non protagonista. Un record che però secondo loro invece... Un record che potrebbe destare molto invidia, e quindi naturalmente, as I like to think of it, dice Alec Baldwin, mi piace vederlo in un altro modo, non tanto il record di chi è stata nominata di più, ma di chi ne ha persi di più, the record of the most losses, perché poi se si va a vedere quante di queste nomination si sono tradotte in Oscar, ovviamente non tutte, e quindi è un doppio record, se vogliamo. Tra l'altro quest'anno c'era questa novità, i migliori film non erano più 5 in quanto candidati, ma 10. Qui si prendono in giro da soli e dicono: quindi quando the best picture category has doubled, quindi quando è raddoppiata la categoria, all of us in Hollywood, tutti noi a Hollywood, thought the same thing. Oh my God, what's 5 times 2? Quindi che quanto fa 5 per 2? Perché in inglese 5 per 2 si dice 5 times 2, o 3 per 2, 3 times 2. E quindi pare che appunto la matematica non sia il forte degli attori, qui naturalmente è un'autoironia, perché tante volte si dice quanto ignoranti siano in realtà gli attori di Hollywood. E alla fine c'è quest'ultimo sketch tra loro due, perché nella platea si vedono, e Christopher Plummer, questo attore fantastico che interpreta Tolstoy in un film su Tolstoy, che invece a proposito di noia, secondo Steve Martin probabilmente non è il massimo della brillantezza come film, e quindi Alec Baldwin lo racconta parzialmente, e Steve Martin dice: "You should have said spoiler alert." Spoiler alert è un'espressione troppo divertente che vuol dire avvertimi che stai per rovinarmi una sorpresa. To spoil, rovinare, alert, avvertimi. Naturalmente non c'è nessuna sorpresa sulla vita di Tolstoy, quindi è l'ennesimo scherzo. Ma procediamo ancora con Steve Martin e Alec Baldwin e la loro presentazione degli Oscar. Oscar. And here is the cast of the nominated film Precious. I love that Precious was nominated because to me, it's the one film that really lived up to its video game. You know, Gabourey and I have something in common. In our first movies, we were both born a poor black child. Oh, wait a minute now. Is that the director of Avatar, James Cameron? You know, Alec, it's an amazing fact that James Cameron used to be married to the director of another nominated film, The Hurt Locker, Kathryn Bigelow. She was so pleased to be nominated with him, she sent him a beautiful gift basket with a timer. Oh. And he reciprocated by sending her a Toyota. C'è una cosa molto divertente. A un certo punto presentano le attrici di Precious, che poi otterranno una nomination, ma l'altra addirittura la statuetta all'Oscar e poi anche l'Oscar per la sceneggiatura, ma soprattutto c'è un'altra battuta, forse più difficile da cogliere, ma davvero divertente. E qui è Alec Baldwin che dice: ah, questo film a me è piaciuto tantissimo, ci tengo tantissimo, come dire, che lui ti farà per quello, perché to me it's the one film that really lived up to the video game, cioè che è stato come che ha rispettato le aspettative che io avevo dopo aver visto il videogioco. E poi dice: io sono anche accomunato all'attrice perché nei nostri primi film eravamo tutti e due dei poveri bambini neri, e quindi qui naturalmente si prende in giro per le sue umili origini, che umili non sono affatto, però insomma vuole accomunarsi a tutti i costi a questa attrice che sappiamo poi ha preso l'Oscar. Poi a un certo punto, wait a minute, scoprono una cosa molto interessante nel pubblico che poi ci terrà così avvinti tutta sera, tutta la notte degli Oscar: la presenza di una ex coppia. Qui naturalmente è la mitica Kathryn Bigelow, ex moglie di James Cameron, tutti e due erano candidati come registi, poi alla fine ha vinto lei, lo sappiamo, e qui naturalmente che scherzano sul fatto che they were so pleased to be nominated with him, she was so pleased, era così contenta di essere in nomination in questa cinquina per il miglior regista e poi però decina per il miglior film, che she sent him a beautiful basket, un bellissimo cestino, non di frutta ma with a timer, cioè con un timer perché potesse esplodere, e lui, he reciprocated, questa è una parola molto complicata che vuol dire ricambiò, ma naturalmente l'hanno usata di proposito, by sending her a Toyota. Ora tu, non abbiamo bisogno di spiegare perché regalare a qualcuno a Toyota in questo momento non è esattamente di buon augurio, di buon auspicio. Ancora Steve Martin e Alec Baldwin. Steve, an interesting fact. What? Did you know that the mustache Brad Pitt wore in Inglourious Basterds was the same one that Selma Hayek wore in Frida? I did not know that. And there's the beautiful Sandra Bullock. Who doesn't love Sandra Bullock? Well, tonight we may find out. Oh. Oh my God, there's Matt Damon. You know what I heard? If Matt Damon wins, he's going to take Jennifer Garner to Tahiti to celebrate. No, that's Ben Affleck. Ben Affleck is married to Jennifer Garner. You are so naive. All right, who's next? Well, Steve, some of the youngest stars are here tonight, Zac Efron and Taylor Lautner. Wow. Take a good look at us, guys. This is you in 5 years. Now it's time to get on with the awards. And if you'd like a transcript of tonight's show, then you should really think about getting a life. Ne hanno anche per Sandra Bullock, che come sappiamo poi vincerà la statuetta, ma qua ancora non si sapeva, anzi forse non ce l'aspettavamo, perché il giorno prima aveva preso il Razzie, l'Oscar tra virgolette della peggiore interpretazione. Sì, Sandra Bullock è, insomma, è diventata famosa per ruoli, mi ricordiamo tutti Speed, ma poi anche quella dove faceva l'agente dell'FBI, Sotto Copertura, insomma sempre ruoli molto comici, e lei è una donna molto simpatica, e quindi tutti dicono, loro dicono that's the beautiful Sandra Bullock, la vedono, no? dal palco, la vedono seduta nelle prime file. Who doesn't love Sandra Bullock? Tutti amano Sandra Bullock, è così amabile, no? Fa film divertenti, non è mai maleducata, non è una che viene paparazzata a fare strane cose. E poi Alec Baldwin, che fa la parte del più cinico dei due, dice well tonight we may find out who doesn't, sottinteso who doesn't love Sandra Bullock, stanotte forse stasera lo scopriremo se c'è qualcuno che non la ama, qualcuno naturalmente di quei 6.000 membri che poi in realtà in maggioranza l'hanno votata. La scorsa settimana abbiamo parlato di Good Will Hunting e ritroviamo Matt Damon e Ben Affleck, i migliori amici, e anche qui cinici Martin e Baldwin. Sì, oh my God, there's Matt Damon, dice Steve Martin, dice Alec Baldwin, e Steve Martin gli dice, you know what I heard, that he will take Jennifer Garner to Tahiti to celebrate, dice, quando se vincerà, perché era candidato come miglior attore non protagonista per Invictus, porterà Jennifer Garner a Tahiti per celebrare, e Steve Martin dice, ma no, that's Ben Affleck is married to Jennifer Garner, guarda che ti stai confondendo, va bene che sono amici, però non si scambiano le mogli sostanzialmente, cioè Jennifer Garner non è la moglie di Matt Damon, ma, e qui il tono di Alec Baldwin è fantastico, perché lo guarda e gli dice, you are so naive, e naive non vuol dire naif come quadro, ma vuol dire ingenuo, cioè come dire, ma cioè guarda che l'ho detto apposta, so benissimo che è la moglie di Ben Affleck, ma so anche benissimo che magari ci sono degli strani incroci, tu non te ne rendi conto perché sei un ingenuone. Devo dire, molto ironici, però anche un po' autoironici, perché a un certo punto vengono inquadrati un paio di attori molto carini come Zac Efron e loro però si prendono in giro. Sì, perché tutto sommato, insomma, sanno che prima o poi sono le nuove generazioni, prenderanno il loro posto, e quindi gli dicono, take a good look at us guys, guardateci bene, perché questi sarete voi, this is you in 5 years, che può essere un grande complimento, perché insomma, diventare i presentatori della notte degli Oscar, però anche dire, invecchierete molto in fretta, sarete dei panzoni come noi tra non molto, quindi anche qua c'è sempre un po' un'ironia latente, però fatta con molto garbo, devo dire. E prendiamo in giro alla fine anche il pubblico, perché cosa dicono Steve e Alec? Insomma, se alla fine di questa serata, che tutti dicono sempre che è un po' troppo lunga, eccetera, you should like a transcript of tonight's show, se per caso vi desiderate procurarvi una trascrizione di quello che abbiamo detto stasera, then you should really think about getting a life. Allora dovreste pensare seriamente che avete bisogno di dare una scossa alla vostra vita. To get a life vuol dire, insomma, smetti di vai a vivere, cercati una vita, fatti una vita, fai qualcosa di divertente e non stare qui davanti alla televisione, sottointeso. Giulia, anche per questa sera abbiamo terminato, noi ci rivediamo credo presto in studio. Sì, settimana prossima assolutamente, torno tra voi fisicamente. Grazie a Giulia Crivelli e anche grazie anche a voi che ci avete ascoltato questa sera. Vi ricordo l'appuntamento in edicola con English 24, il nostro tempo finisce qui. Da Marta Cagnola l'augurio di una buona serata.